La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole di questa settimana è dedicato all'emigrazione italiana negli Stati Uniti d'America nei primi del Novecento. Sacrifici, dolori, pregiudizi razziali raccontati nel libro La fine, dello scrittore italo-americano Salvatore Scibona, oggi ospite ai nostri microfoni. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Spesso nel confuso dibattito politico di casa nostra dimentichiamo che siamo stati per decenni un popolo di emigranti. Ricordate il film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre, del 1981? Un napoletano con la valigia può essere solo una cosa, un emigrante. Alla ricerca del sogno americano sono partiti milioni di italiani nel secolo scorso. Nella baia di New York, accanto alla Statua della Libertà, un isolotto, Ellis Island, ora è un museo, il Museo dell'Immigrazione. In realtà, dalla fine dell'Ottocento, ebbe una grande importanza per gli Stati Uniti. Proprio lì, di fronte a Manhattan, attaccavano le navi cariche di emigranti. La casa di prima accoglienza prigione di Ellis Island rimase attiva fino al 1954, quando venne chiusa e abbandonata. Prima del 1876, anno in cui si cominciò a rilevare con regolarità il fenomeno dell'immigrazione italiana, la media delle emigrazioni si aggirava intorno alla cifra record per quel tempo di 123.000 unità. Dal 1887, in seguito all'incremento dell'offerta di lavoro del mercato americano, prende avvio rapidamente l'emigrazione transoceanica. La media annua complessiva passa così a 269.000 unità. Nei primi anni del XX secolo la media annua sale a 626.000 emigranti. A emigrare sono soprattutto i meridionali a causa della disoccupazione e delle pessime condizioni sociali e ambientali. In soli 12 anni, dal 1901 al 1913, oltre 3 milioni di italiani tentano la fortuna negli Stati Uniti. Un bellissimo film, La leggenda del pianista sull'oceano, del 1998 di Giuseppe Tornatore, ci porta proprio dentro quelle storie di sofferenza, ma anche di grandi aspettative. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave. Tra ricconi in viaggio e migranti, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo, che per primo la vedeva. Magari era lì che stava semplicemente mangiando o passeggiando sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a 1000 e sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti, e gridava: America! Vicende cariche di umanità e sofferenza che ora tornano in mente scorrendo le pagine del libro di Salvatore Scibona, La fine, pubblicato nell'edizione italiana da 66 and Second. Salvatore Scibona ha 35 anni, è stato selezionato con questo suo primo romanzo tra i 20 più importanti autori di lingua inglese sotto i 40 anni d'età dal New Yorker. Lo scrittore è stato ospite giovedì scorso alla scuola di scrittura creativa della LUIS Guido Carli. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Salvatore Scibona, italo-americano, lo abbiamo detto poc'anzi, ha 35 anni ed è stato selezionato con questo suo primo romanzo tra i 20 più importanti autori di lingua inglese sotto i 40 anni d'età dal New Yorker. Allora, il suo libro è una storia che ci rimanda un po' all'Italia contadina dei nostri bisnonni, se vogliamo. Può spiegare ai nostri ascoltatori un po' qual è la storia che viene raccontata in questo libro, La fine? la storia tocca una zona inventata, devo dire, italo-americana, nella città Cleveland, nel Mezzovest, dove sono nato. E io sono proprio terza generazione clevelandese, posso dire, cioè tutti i miei sono da Cleveland, tutti i nonni sono nati lì, i miei genitori sono nati lì, però tutti i miei bisnonni sono nati nell'Europa, la famiglia di mio padre è italiano, della mia madre da Polonia. Non avevo nessuna intenzione di scrivere qualsiasi cosa autobiografica. Questa non è la storia della mia vita, della mia famiglia, però tutti chi scrivono quello che conoscono. Quindi questa storia tocca la parte estrema della mia conoscenza. Le persone più vecchie della mia giovinezza erano i miei bisnonni immigranti, soprattutto mia bisnonna, e ho diventato da un'età molto piccola ho diventato affascinato di questa donna anziana, sempre vestito in nero perché il suo marito è stato morto per 50 anni e lei non poteva parlare quasi nessuna parola di inglese. Però l'epoca della sua giovinezza, il luogo della sua giovinezza mi interessava tantissimo. E ho cominciato così, con quel momento nella storia, il momento dell'immigrazione, la cultura di tutti questi immigranti che hanno fondato questa zona dove non si trovava l'inglese più o meno per 30 anni. Però alla fin fine, vicino agli anni 50, quasi tutte quelle zone, dappertutto negli Stati Uniti, cioè le zone degli immigranti dall'Europa, erano abbandonati. Questo è sempre lo sfondo del romanzo. Ecco, a questo proposito, il libro, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, comincia il 15 agosto del 1953, è la festa dell'Assunta a Elephant Park, e come ogni anno il quartiere si trasforma in una sorta di carnevale di venditori ambulanti, gente di ogni colore, infinite varietà di cibo, mirabolanti giostre per bambini. Come mai hai scelto appunto di cominciare a scrivere il libro ricordando questo evento? Fino adesso c'è una zona molto piccola a Cleveland che si chiama Little Italy, si chiama anche Murray Hill. Loro hanno fin oggi una festa del Ferragosto assolutamente enorme, e poi non è tantissimo una cosa della religione o di una cultura pura italiana, però in ogni caso è diventato una festa enorme, e le strade in quella zona sono piccolissime e anche le folle sono assolutamente incredibili. Cioè nel Mid-Ovest è uno spazio molto ampio. Quando io ero più piccolo e noi la famiglia siamo andati insieme a quella festa, e è stato una delle prime volte quando mi ho trovato in una folla. Avevo la mia prima esperienza della cultura più italiana, cioè la cultura di gruppi nei piazzi, fuori, insieme, eccetera, eccetera. Da noi, nel suburbs, nel Mid-Ovest, tutto è sempre con tanto spazio, le case sono molto distanti dagli altri. E quindi quando ho visto per la prima volta quella festa, ha cacciato la mia immaginazione. Catturato, sì. È sì. Catturato. E poi ho cominciato a scrivere. Avevo un borso di studio di venire qui in Italia. Sì. Sono stato a Catania proprio durante la festa di Sant'Agata. Cioè una festa come non potevo credere, veramente è stata una folla come non ho visto o partecipato nella mia vita mai. Di fondo c'è la storia di una famiglia di emigranti che cerca di trovare anche una sua dimensione in una terra nuova, dove è andata alla ricerca di una nuova vita, perché questo era poi il sogno di tanti emigranti italiani. Per me è stato molto importante di evitare le cliché. Lo so che ci sono diverse storie degli immigranti. Mi interessa ovviamente quella storia, però volevo sempre ricordare che la storia degli immigranti e anche il problema degli immigranti come una cosa intellettuale è sempre nello sfondo. Perché volevo ricordare che gli immigranti che conoscevo io non ci pensavano sempre di essere immigranti, pensavano prima di essere padre di questo, fratello di questo, madre di questo, lavoratori in questo modo, in questo posto. Cioè, vuol dire che la sua esperienza di essere immigranti non è stata la cosa più importante di loro. Cioè, loro non sono i miei personaggi, non sono esempi della storia, sono individuali. Loro hanno i suoi propri animi e voglio sempre mantenere nella fronte della mia mente questa convinzione. Bene, allora noi ovviamente consigliamo la lettura di questo bel libro, Salvatore Scibona, La fine, che è stato pubblicato negli Stati Uniti alla fine dello scorso anno e ora è in edizione italiana con la casa editrice 66 and Second. Grazie a Salvatore Scibona, allora. Grazie, è stato un piacere, grazie.